notte fonda, senza luna e un silenzio mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va, preda degli eventi dell'età. Ma questa paura per te non passa mai. In un momento siamo soli e questa realtà ed è